Dopo un lungo viaggio, durato 18 puntate e quasi 6 mesi di tragitto, possiamo cercare di rispondere alla fatidica domanda: cos'è il gioco? Ebbene, le risposte sono molteplici. Anzitutto, il gioco è un'esperienza. Questa è la caratteristica più importante che abbiamo potuto cogliere attraverso le parole dei giocatori e degli appassionati. Nella dimensione dell'esperienza, il gioco assume un senso e nel frattempo si trasforma. Un'altra cosa che possiamo dire è che il gioco è una messa in scena. A pensarci bene, il gioco possiede un tempo di esecuzione, un luogo ideale di esecuzione, degli orari ideali per eseguirla, una scenografia e altro materiale di scena e soprattutto degli attori che recitano su un copione, cioè le regole del gioco, che è sì preciso ma lascia anche molto spazio all'improvvisazione. Il gioco può essere anche uno strumento, oltre che di svago, la sua funzione forse più ovvia ma non sempre così scontata, anche di socializzazione, di integrazione e di apprendimento, ma anche di esplorazione delle parole, dello spazio, del proprio corpo e del corpo degli altri, e di sviluppo delle facoltà di calcolo, di previsione, di ragionamento, di strategia e ancora di socializzazione. Come vedete sono tutte risposte esatte ma anche un po' vaghe. Forse potremmo dire con le parole del nostro ospite, per riassumere tutte queste riflessioni e introdurne delle nuove, che il gioco è un oggetto sociale, un oggetto che nasce e si sviluppa attraverso il rapporto tra il gioco stesso e le persone, secondo criteri e modalità che spesso le stesse persone che giocano non riescono a vedere. Radio 110 presenta Bim Bum Bale Giù, un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Benvenuti alla 18ª e penultima puntata di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo, su 110 Web Radio, la radio dell'Università di Torino. Come avete sentito dall'introduzione, è arrivato il momento di tirare le somme. Di mettere insieme tutte le esperienze raccolte durante queste puntate e di cercare di capire qual è il loro significato. Per questo abbiamo avuto l'occasione di chiacchierare qui nello studio di Via Verdi 8 con un giovane dottorando presso il nostro Ateneo, Ivan Mosca, che si occupa di filosofia e più precisamente di ontologia, con il professor Ferraris. Come sentirete dall'intervista, a cui lasceremo ampio spazio, il discorso di Ivan non è un vero e proprio riassunto di quanto abbiamo detto sinora. Però rientrano concetti e idee che abbiamo già attraversato e alle quali Ivan collabora a dare una dimensione, una definizione più precise, più dettagliate. Così, ascoltando le considerazioni di Ivan, potremmo riportare alla mente molte delle esperienze di gioco che abbiamo attraversato, cercando di capire il modo in cui le questioni che hanno sollevato possono essere rilette in questa particolare chiave. Inoltre, parlare con Ivan è stata l'occasione per parlare di un genere di gioco che negli ultimi 10 anni ha avuto un aumento impressionante di popolarità e di guadagni, e cioè il videogioco. Cominciamo a parlare con Ivan, quindi. Il primo contributo della nostra intervista tratterà di che cos'è il gioco dal punto di vista di Ivan e il suo lavoro di ricerca. Il secondo parlerà più precisamente del lavoro di ricerca di Ivan e qual è lo stato di salute degli studi sul gioco in Italia, mentre con il terzo estratto entreremo in merito alla questione dei videogiochi e della loro importanza per gli studi filosofici ai nostri giorni. Il gioco è uno degli oggetti sociali. Gli oggetti sociali sono quegli oggetti che esistono solo perché le persone ci credono, come il valore del denaro, il vincolo del matrimonio, le leggi dello Stato, le elezioni, le cariche pubbliche. Sì. Esistono, le persone ritengono che siano questioni oggettive che non dipendono da loro, dalla loro volontà, però in realtà dipendono esattamente dalla loro volontà. Esatto. E come si colloca il gioco in questi altri eventi che tu hai citato come oggetti sociali? Beh, per esempio, le regole dei giochi esistono soltanto perché le persone ritengono che esse esistano. Per cui la regola che prescrive il movimento di un alfiere su una scacchiera è una regola che le persone intendono in quanto oggettiva, la stessa esistenza dell'alfiere in quanto elemento ludico di una sintassi di un gioco esiste in quanto le persone ritengono che esso esista. Di per sé un alfiere è un pezzo di legno sagomato. Quindi è un po' un modo per negare l'arbitrarietà di un intervento umano nel gioco, quasi come se il gioco fosse dato dall'alto un po' a caso, non so. Beh, certamente gli oggetti sociali e i giochi che hanno degli elementi che sono oggetti sociali al loro interno, quali ad esempio le regole, possiamo dire che sono fenomeni sociali all'interno dei quali gli attori sociali negano il proprio apporto nella costruzione del fenomeno stesso. Bim bum bale giù! questo punto ti volevo chiedere, siccome abbiamo parlato di oggetti sociali, quindi stiamo parlando un po', non so, poi correggimi tu, comunque di già di un tipo di astrazione rispetto al fenomeno gioco, come interviene, su cosa interviene la tua ricerca, cioè come lavori tu in quanto ricercatore studiando il gioco come oggetto sociale? Io mi occupo di teorie e di spiegazioni del gioco in generale come fenomeno, perciò vado a leggermi dai classici agli studi recenti che in particolare negli ultimi 10 anni si sono sviluppati soprattutto attorno ai videogiochi, sono i cosiddetti game studies, sì, che hanno un'origine in parte americana, in parte europea, ci sono una serie di dipartimenti importanti anche qua in Europa, tra cui Copenaghen per esempio, e che si occupano di videogiochi e cercano di individuare quali sono gli elementi dei videogiochi e le strutture di relazione tra il videogiocatore e, si può usare questo termine un po' tecnico, le affordance presenti a schermo, ossia le proprietà, sì, le proprietà relazionali degli oggetti a schermo. Sì. Per cui, quindi il rapporto tra il giocatore, non so, è la porta di Wolfenstein, nel senso aprire la porta, quella è un affordance. Esatto. Okay, e hanno portato alla progettazione di una serie di strutture di interfaccia diverse, per esempio i game studies hanno generato la Wii. Ah, però effettivamente è un po' la nuova frontiera. Quindi comunque mi confermi che i libri che leggi sono tutti in un'altra lingua rispetto alla nostra, nel senso in Italia quasi, non c'è quasi molta vitalità. Quasi tutti, l'Italia dal punto di vista dello studio dell'ontologia del gioco, che è ciò di cui mi occupo, è un po' indietro, devo dire. In generale è una materia che si è sviluppata recentemente e che secondo me ha ancora molto da svilupparsi. Sì. Perché anche i convegni che si fanno non sono così tanti in giro per il mondo e non sempre hanno un livello di approfondimento come altre materie filosofiche hanno. In Italia ce ne sono veramente pochi centri che si occupano di questo genere di questioni. Per esempio in relazione ai videogiochi è molto importante l'Emilia Romagna, ma in relazione ai videogiochi, in relazione al gioco come fenomeno generale, ci sono molti studi, quello sì, di psicologia, dello sviluppo, quello anche in Italia sicuramente. E cosa hanno questi studi di psicologia dello sviluppo che andrebbero integrati con altri aspetti, diciamo? Allora, la psicologia dello sviluppo studia il gioco a partire da 100 anni a questa parte, sì, perché il gioco è un'attività prevalentemente, almeno noi riteniamo, prevalentemente infantile, sì, pertanto andare a cercare di capire come il bambino si sviluppa attraverso il gioco è un elemento importante, molto importante. Dopodiché non viene studiato il gioco in sé in quanto fenomeno, in sì, quanto oggetto. Ok. Perché io mi occupo comunque di oggetti, sì, alla fine è perché è importante, perché questa questione del occuparsi di oggetti e non di soggetti è una questione che attraversa in generale la filosofia recente, che sì, tende a spostarsi verso lo studio dell'oggetto. Una spiegazione proprio brevissima, perché appunto è così importante studiare il gioco come oggetto piuttosto che come soggetto? Perché le persone si relazionano ad esso come se esso fosse un oggetto. Ok. Bim bum bale giù. State ascoltando Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo, su 110 Web Radio, la radio dell'Università di Torino. Parliamo con Ivan Mosca di giochi da un punto di vista particolare, quello dell'ontologia, e cioè considerando innanzitutto i giochi come oggetti con i quali le persone intrattengono rapporti particolari di ogni genere. Scopriamo che il rapporto dei giocatori con i giochi è particolare perché spesso i giocatori non riconoscono il proprio intervento nelle trasformazioni che riguardano i giochi stessi e che l'atteggiamento, ma lo vedremo anche più avanti, nei confronti del gioco non è mai serio, il che risponde per esempio a un quesito importante, a un'insoddisfazione di fondo che abbiamo percepito durante tutto l'arco delle nostre puntate, e cioè la sensazione che il gioco venga lasciato un po' solo quando si tratta di parlarne, come se, come ci è già capitato di dire, fosse una cosa di poco conto, sebbene abbia riguardato gran parte delle persone per una fascia di età anche piuttosto ampia, dalla nascita fino all'adolescenza. Inoltre ci dice molto anche sul perché è così difficile parlare di gioco in termini di materialità, per esempio dei materiali di costruzioni, ma anche della sua storia, in particolare delle sue origini. Il gioco in quanto tale viene percepito come immutabile e immutato, non soggetto alle trasformazioni, soprattutto nell'esperienza di chi crescendo l'ha un po' trascurato e lo vive saltuariamente nella sua sola dimensione di svago. Continuiamo la chiacchierata con Ivan Mosca sul gioco. Abbiamo parlato di manipolabilità del gioco e del videogioco, della realtà del gioco contro la realtà del videogioco e infine un piccolo esercizio, applicare il concetto di manipolabilità a un discorso più ampio dal punto di vista di Ivan e del suo lavoro di ricerca. Giochi come oggetti, quindi giochi che con cui tu, a parte hai una relazione semplicemente spaziale, nel senso che ti poni davanti all'oggetto e quindi cioè, lo muovi come ti trovi tu, ma anche gli orari in cui decidi di giocarci, ma anche, non so, l'idea che hai di questo oggetto, nel senso, trattare il gioco come un oggetto vuol dire cioè trattare tutte le relazioni che una persona ha in rapporto alla dimensione, cioè al gioco come viene sempre oggetto, come cosa fisica. Non soltanto come cosa fisica, siamo attenti, ma come cosa che esiste al di là della mia volontà, al di là della mia psiche, al di là della mia intenzionalità. Quindi se io faccio un esempio molto, molto basso, se io pensassi che lo scopone scientifico è un gioco da vecchi, mi relazionerei al gioco quanto oggetto? Esattamente, ti relazioneresti come allo scopone scientifico in quanto oggetto da vecchi. Quindi okay. I tuoi comportamenti saranno, dipenderanno da questa, sì, tua concezione. A me piace moltissimo, ci tengo. Ma anche a me, siamo due vecchi, esatto, ci troviamo. Esatto, mi piace ancora di più perché è un gioco da vecchi. Allora, adesso io mi si apre tutto un range di argomenti, perché appunto la materia è molto vasta e il tempo a disposizione come sempre no. Una cosa che mi interessava chiedere, tornando un po' ai videogiochi, io non ho ancora parlato dei videogiochi in trasmissione e mi ha stimolato molto quello che hai detto prima. Io sono più un videogiocatore che è un giocatore, quindi in realtà dovrei essere dalla parte dei videogiochi, ma in questa trasmissione ho deciso di no, e quindi nel senso tratterò i videogiochi come un nemico e ti chiederò quanto l'avvento del videogioco con tutte le sue mega innovazioni che nessuno vuole sottovalutare, ma quanto l'avvento del videogioco ha in qualche modo provocato una cesura o comunque ha posto un'interruzione brusca allo sviluppo dello studio dei giochi, diciamo, chiamiamoli tradizionali o di scatola o non so quale altra definizione più precisa ci sia, appunto catalizzando tutte le attenzioni di sé. Beh, il motivo è principalmente uno: il fatto che il videogioco ha mosso un capitale finanziario e anche umano, perché poi quando ci sono i soldi ci sono le persone che lavorano dietro questi soldi, enorme. I videogiochi da quasi 10 anni hanno superato il fatturato mondiale del cinema, e sì, il cinema è stato un fenomeno che ha richiamato molti studi proprio perché era un fenomeno a sua volta molto redditizio, perciò se i videogiochi fanno guadagnare più dei film, evidentemente vanno studiati. Questa è un po' una conseguenza della società in cui viviamo, devo, esatto, dire, però c'è da una parte questo motivo che è molto molto molto molto importante, direi, e dall'altro c'è un'altra questione: il fatto che il videogioco è un media nuovo, totalmente nuovo rispetto ai giochi tradizionali, anche rispetto ai giochi da tavola, perché i giochi da tavola si sono estremamente sviluppati nel corso del XX secolo, però hanno una storia che è millenaria, sì, mentre una cosa come il videogioco non esisteva prima, sì, del XX secolo. La particolarità del videogioco, che secondo me oltretutto richiama molte attenzioni, è che è un po' uno specchio della società contemporanea, perché noi siamo una società che combina da una parte materialismo e dall'altra venerazione delle immagini. Ecco che nei videogiochi noi abbiamo una manipolazione materiale delle immagini, sì, perché il soggetto, il giocatore, che ha un accesso a queste immagini e può modificarle in tempo reale. Questa doppia caratteristica del videogioco ne fa un buon specchio della società in cui viviamo. Bim bum bale giù! E isolerei il termine manipolabilità. È un sostantivo che ho utilizzato, che ho richiamato più volte durante le trasmissioni. Io sono antropologo, quindi cioè, faccio della manipolabilità della cultura un po' una specie di fede, per quanto poi a volte possa anche sbagliare. E entrando in conoscenza con questi nuovi giochi, soprattutto da scatola, scopro con stupore, anche con piacere, l'estrema creatività che questo concetto ha assunto nella creazione di giochi nuovi. E vabbè, noi abbiamo parlato dei Lego Game, ma certo, mi è capitato anche, andando al centro della cultura, per la cultura ludica, di trovare un Forza 4 diviso in 4 parti, per cui tu potevi spostare ogni tavoletta, ogni tassello, quindi creando in qualche modo un tabellone nuovo e mettendo in difficoltà l'avversario in questa maniera qui. E poi c'è il videogioco, che è, diciamo così, la summa di questa cosa della manipolabilità, soprattutto con i giochi di ruolo attuali, perché non so, io ho sentito di giochi come Alone in the Dark, dove dovevi controllare addirittura i sensi del tuo alter ego, adesso non vorrei sbagliarmi, per Xbox. E d'altro canto, nel senso, i giochi punta e clicca spingono molto verso questa dimensione qui, ma anche gli attuali FPS, cioè i first person shooter, sono diventati molto più interattivi rispetto al semplice sparare. Tu fai delle facce, adesso mi direi tutto quello che c'è da dire. Dunque, c'è una questione che da quando è nato il videogioco ha ispirato molto i giocatori e pertanto anche i programmatori verso il concetto di, come dici tu, manipolabilità. Perciò noi abbiamo visto un'evoluzione del genere, dei generi e dei singoli e delle singole serie di videogiochi proprio verso il tentativo del aumentare la possibilità da parte del giocatore di manipolare gli elementi a schermo, e questo per esempio ha generato il genere del sandbox. Il sandbox, come dice il termine, la cassetta di sabbia, è un genere di videogioco che permette al giocatore di avere uno spazio a disposizione all'interno del quale muoversi, da esplorare, all'interno del quale trovare una serie di storie che si intrecciano tra di loro da poter interpretare in maniere abbastanza libere. Quindi un esempio tipico del sandbox è GTA 4 Grand Theft Auto, per esempio. Perché mi viene in mente che è una cosa molto trasversale, nel senso si potrebbe dire di The Sims, quelle versioni più evolute, ma anche di Baldur's Gate. Quindi di... L'idea del sandbox è dare in mano al giocatore un giocattolo, sì, più che una struttura ben determinata, sì, da dover fruire in una maniera ben determinata. Perciò questo giocattolo è nelle mani del giocatore, il giocatore deve in qualche modo utilizzarlo, scegliendo un po' come utilizzarlo. Sì. Per esempio l'inventore di SimCity, sì, The Sims, che si chiama Will Wright, fondatore della Maxis, lui dice: i miei giochi sono giocattoli. Effettivamente i giochi di Will Wright, della Maxis, The Sims, SimCity, sono palesemente dei giocattoli, sì, nelle mani del giocatore. Ci sono altri giochi che invece forniscono al giocatore già tutta una serie di istruzioni su come devono essere utilizzati. Sì. Ecco, però da questo punto di vista è interessante notare che c'è una netta distinzione tra i videogiochi e i giochi tradizionali, ad esempio i giochi da tavola o anche i giochi che non hanno delle regole precise. Sì. Perché nei videogiochi in generale in qualche modo l'uso è già molto suggerito. Sì. Le modalità di fruizione del giocattolo videogioco, sì, sono già inserite nel giocattolo videogioco. Beh, certo. Il giocatore in qualche modo è instradato. Sì. Invece nei giochi tradizionali tutto questo è molto più demandato all'iniziativa e all'intenzione e l'intenzionalità del giocatore. Un esempio su tutti: nei videogiochi non viene quasi nessun videogioco, ne conosco ma saranno una decina, non è quasi mai richiesto nei videogiochi al giocatore di obbedire a delle regole, mentre la maggior parte dei giochi che si fanno, sia i giochi da strada che i giochi da tavola, richiedono al giocatore di obbedire a delle regole in maniera esplicita, viene richiesto, sì, e il giocatore può obbedirvi come non obbedirvi. Certo. E in questo senso i regolamenti dei giochi, siano sport come il calcio che giochi da tavola che giochi da strada, prevedono, sì, le sanzioni per quando il giocatore non, sì, obbedisce alle regole, obbedisce in maniera sbagliata. Chiaro. E tra i videogiochi non prevedono sanzioni. Cioè, nei videogiochi perché non puoi barare, fondamentalmente. I videogiochi non puoi barare, l'unico modo per barare è modificare manualmente, stesso, materialmente il codice del programma. Beh, ma è una cosa ben diversa, perché un conto è modificare un codice del programma inserendo dei numeri all'interno di un codice, sì, modificare materialmente. Sì. Un conto invece è obbedire o non obbedire a una regola. Sì. Ha a che vedere molto di più con la volontarietà. Sì. In un certo senso, il videogioco sottrae un po' di centralità al giocatore, sì, rispetto al gioco tradizionale. Certo, perché... offrendogli molti più strumenti, sì, però di manipolazione, questo è chiaro. Bim bum bale giù! Visto che abbiamo parlato della manipolabilità, adesso facciamo un esercizio, se è possibile, per far capire bene come in che cosa consiste il tuo lavoro, come possiamo collocare questo discorso sulla manipolabilità in quello che fai tu, fondamentalmente, in una riflessione più generale del gioco come oggetto. Un discorso come quello che abbiamo fatto per la sulla manipolabilità, come si colloca, cioè che utilizzo ne fai? Allora, il gioco è uno degli oggetti sociali, forse l'oggetto sociale a mio avviso più particolare, perché quando le persone giocano non ritengono di stare facendo qualche cosa di serio, molto spesso definiscono le proprie azioni come fittizie, irreali, il che tende a deoggettivare l'oggetto gioco, perché tutto ciò che è irreale e fittizio viene generalmente percepito dal soggetto come un qualche cosa che è stato generato dal soggetto stesso. Sì. Quindi quando un giocatore si relaziona con un oggetto ludico, intendendolo sia come ludico che come oggetto, sta in qualche modo generando una sorta di ossimoro, sì, ontologico, perché ritiene da una parte di avere a che fare con un oggetto che esiste indipendentemente dalle proprie intenzioni, sì, però dall'altra ritiene di trattare questo oggetto in quanto ludico, e questo trattarlo in quanto ludico invece ritiene di è una caratteristica, la sua ludicità di questo oggetto, che dipende dal soggetto stesso, sì, questo sempre nella concezione del soggetto, sì, per cui noi possiamo andare a vedere un giocatore di scacchi, sì, che prende in mano la sua scacchiera e i suoi pezzi e notiamo che lui molto probabilmente descriverà ad altri e a se stesso le regole degli scacchi e i pezzi degli scacchi come un qualche cosa di oggettivo, dopodiché però descriverà se stesso e agli altri il fatto che lui vi gioca in maniera, sì, ludica, come un qualche cosa che dipende da lui, sì, per cui effettivamente tutti coloro che hanno fatto una carriera scacchistica o tutti gli sportivi intervistati in merito diranno di poter distinguere i momenti in cui giocavano da quelli in cui lavoravano, facendo le stesse identiche operazioni. Sì. Per cui, non so, un centravanti della nazionale italiana, sì, potrà distinguere il momento in cui esulta per lavoro o esulta per divertimento. Sì. Calcia il pallone per lavoro, calcia il pallone per gioco. Questa distinzione sarà una distinzione che dipende da lui. Sì. Almeno lui riterrà questo. Mentre le regole del calcio lui non ritiene che esse esistano grazie alla sua intenzionalità. Sì. Laddove invece noi andiamo a verificare che non esistono regole senza intenzionalità di soggetti alcuni. E io ti chiederei, che cosa implica un discorso del genere? Cioè, dove il soggetto sembra quasi che si accenda o si spenga a seconda del contesto in cui opera, diciamo. E anche lo stesso soggetto si accende e si spenga, perché un gioco può essere un gioco ma può essere un lavoro. Questo genere di studi può avere un genere di ricaduta sulla progettazione dei giochi, sì, e oggi sappiamo essere soprattutto legata ai videogiochi, perché sì, sono quelli che muovono il maggior capitale, quindi è un aiuto per i designer, sì, da una parte. Dall'altra può avere delle ricadute in relazione allo studio di come le persone si relazionano non soltanto agli oggetti ludici, sì, ma anche agli oggetti sociali che loro stessi ritengono seri, sì, per cui le cariche pubbliche, sì, le strutture della moda, le retoriche politiche, sì, e le ideologie. Quindi anche un discorso sulle responsabilità, possiamo dire. Responsabilità civili in generale. Sì. Per cui noi possiamo capire meglio come, perché le persone possono ritenere di avere un peso nel momento in cui eleggono un individuo, ma ritengono di non avere più un peso nel momento in cui, per esempio, non si ribellano all'elezione, sì, avvenuta. Già. Cioè, sono dinamiche che possono essere studiate in relazione ai giochi, ma che possono poi dopo applicarsi anche ad altri fenomeni sociali. Bim bum bale giù! Questa è la 18ª puntata di Bim bum bale giù, così gioca il mondo. La penultima della serie, su 110 Web Radio, la radio dell'Università degli Studi di Torino. Parliamo di giochi con Ivan Mosca, dottorando in filosofia presso l'Università degli Studi di Torino. Stiamo parlando di gioco con Ivan e stiamo anche tirando un po' le fila del nostro discorso sui giochi cominciato con questa trasmissione e ormai addirittura d'arrivo. Nel prossimo spezzone si affrontano degli argomenti importanti per il nostro punto di vista, sul gioco come istituzione, sul perché parlare di gioco, sulla serietà o meno del gioco e sul rapporto tra gioco e rappresentazione, gioco e finzione e gioco e linguistica, durante il quale Ivan inoltre ci darà una sua personale originale definizione di gioco. Nello spezzone successivo, l'ultimo della nostra intervista, parleremo con Ivan di L.A. Noir, un gioco uscito alla fine del mese di maggio 2011 e che è stato accolto con grande entusiasmo da critica e pubblico. Gli abbiamo chiesto, in conclusione, cosa rappresenta questo gioco per il futuro della ricerca. Tra l'altro fai molto il parallelo tra gioco e istituzione, diciamo, politico-amministrativa. Mm-hmm. Cioè, lo fai perché così, perché è più semplice farsi capire, oppure fai un collegamento? Cioè, qual è il collegamento, a parte l'essere oggetti sociali, che questo è chiaro. Però è interessante un po', nel senso, considerare le elezioni simili a gli scacchi. Ma rispondo in due modi. Da una parte ti dico, il gioco è un'istituzione. Sì. È un'istituzione tra le altre. Per esempio c'era Eugen Fink che riteneva che le cinque forze fondamentali del mondo umano fossero gioco, lavoro, guerra, amore e culto. Quindi possiamo dire che è una delle istituzioni fondamentali per l'essere umano. Dall'altra ti rispondo con una citazione di Brian Sutton Smith, che è uno studioso del gioco, un antropologo, psicologo, antropologo della seconda metà del Novecento, che un giorno si è chiesto se durante i tre giorni del carnevale in cui il buffone siede al posto del re sul trono, se durante quei tre giorni muore il re, cosa accade? Sì, esattamente. Ok, e questo probabilmente è un po' quello che è accaduto a noi negli ultimi, diciamo, 20 anni. Ok, secondo te, perché è una cosa che ho incontrato io facendo la trasmissione, secondo te perché, almeno da noi, perché nel mondo anglosassone è un altro discorso, anche nel mondo nordico in generale, ma secondo te come mai il gioco, rispetto ad altre istituzioni, appunto ha questo switch per cui a un certo punto smette di essere una cosa seria? Per cui io mi accorgo che fare un programma sui giochi non può fare a meno di scatenare una certa ilarità, sebbene non parli semplicemente del gioco in scatola per quello che è, ma anche faccia discorsi come questo con te, nel senso, perché sembra superfluo parlare approfonditamente del gioco quando è una roba che facciamo invece per tipo un quarto della nostra vita? Perché le persone è una cosa che fanno proprio perché non è una cosa, non ritengono sia una cosa seria, o meglio, sì, una cosa seriosa. C'era una cosa che diceva Huizinga, che è il primo, sì, che si è occupato di gioco, era che se vai a osservare un giocatore, costui giocherà in maniera molto seria a quello che sta giocando, al gioco che sta giocando, però non descriverà questa attività come un'attività seria agli altri e neanche a se stesso. Però lui, se lo guardiamo, effettivamente sembra serissimo, al che è molto difficile per un antropologo riuscire a distinguere nettamente, per esempio, un fenomeno ludico da un fenomeno rituale religioso. Sì. Molto spesso è difficile individuare le differenze, perché l'attore sociale è anche teatrale, perché c'è tanto di rappresentazione in questo tipo di attività. Poi sulla teatralità, noi in italiano abbiamo il termine gioco, si applica soltanto a quello che noi italiani teniamo gioco, ma all'estero, mezzo mondo, i termini relativi ai giochi e relativi alle finzioni sceniche teatrali sono, anche questo è strano, si sovrappongono, ma non è poi così strano, perché a mio avviso, io mi sono permesso di fare dare una definizione di gioco mia, che è finzione interattiva esplicita, intraducibile in inglese, perché interactive fiction è già un genere di videogioco particolare. Ora, l'elemento della finzione è presente in tutti i giochi, a mio avviso. Quando, nel momento in cui un giocatore percepisce di giocare, sente di stare facendo un qualche cosa di fittizio, qualche cosa che si slega dal mondo reale, dal mondo serio, dal mondo normale. Quindi tutte le attività che in qualche modo si slegano dal mondo reale, serio e ordinario, sono apparentabili in un certo senso ai giochi, perciò anche la rêverie individuale, anche il teatro. C'è un qualche cosa di apparentabile a quello che noi generalmente in italiano intendiamo gioco quando parliamo di gioco, da una parte, e dall'altra questo però effettivamente spiega il perché occuparsi di gioco non viene preso come un'attività seria, occuparsi seriamente di gioco non viene preso come un'attività seria, perché il gioco di per sé non è un'attività seria, quindi fare un'attività seria su qualcosa di non serio sembra surreale. Sembra strano, sembra, torna allo simbolo di prima, invertito però questa volta. Che dirti? Continua a occupartene seriamente. Pazienza. Continua a occupartene seriamente. Ma non forza. Troppo, non troppo, perché altrimenti poi dopo poi diventa una roba diventa seria. Infatti no, non va bene. Smette di essere gioco. Bim bum bale giù. Ti faccio la domanda che non c'entra niente, o forse sì, mi direi tu. L'altro giorno giravo per un negozio e finalmente è uscito L.A. Noir. Che vabbè, L.A. Noir, non so quante comparse, un gioco che è più un film che un gioco. Cosa comporta un gioco come L.A. Noir rispetto appunto a quello che abbiamo detto sui giochi, cioè la manipolabilità, il rapporto giocatore-gioco? È qualcosa di innovativo o è soltanto un colossal di qualcosa che esiste già? Da un punto di vista videoludico sicuramente ha delle meccaniche innovative. La prima, poi non so se ci hai già giocato. Ma ero alla presentazione a Bologna del gioco durante un convegno. Dunque, da un punto di vista videoludico è un'innovazione, perché introduce l'elemento del riconoscimento relazionale. Con relazionale intendo il riconoscimento di un soggetto verso i comportamenti di un altro soggetto. Il soggetto di un giocatore deve cercare di riconoscere i comportamenti, le intenzioni di un altro giocatore, che in realtà non è un giocatore, è un personaggio non giocante. Quindi introduce questo elemento che da un punto di vista videoludico non è mai stato presente, anche perché non era di accesso tecnico poter riprodurre i volti con la precisione con cui sono stati riprodotti in questo gioco e via dicendo. Da un punto di vista più generale non ha particolari innovazioni, nel senso che questo riconoscimento, in generale il riconoscimento è una qualche cosa che è già presente nei videogiochi da tantissimo tempo. Si pensi a tutti quei videogiochi che hanno introdotto l'elemento dell'esplorazione. Sì. Non tutti i videogiochi non sono nati con l'elemento dell'esplorazione, è stato introdotto all'inizio degli anni 80 indicativamente. L'elemento dell'esplorazione è un elemento che richiede al giocatore di riconoscere gli elementi a schermo attraverso due generi di pattern. Il primo pattern è quello di legato al riconoscimento di qualche cosa che è già stato visto all'interno del gioco. Quindi metto insieme due elementi che ho visto precedentemente e ne ricavo un terzo. Dall'altra parte, il secondo pattern è un riconoscimento relativo a un bagaglio culturale, a un'enciclopedia di riferimento del giocatore, legata a elementi esterni al gioco. E L.A. Noir, per esempio, è legato a questo secondo pattern, soprattutto perché io devo cercare di riconoscere dalle espressioni di un personaggio non giocante se questo personaggio non giocante sta mentendo oppure sta dicendo il vero. E io come giocatore sarò in grado di risolvere questo genere di problemi perché ha un'enciclopedia di riferimento. Per esempio, un giocatore asiatico probabilmente avrà più difficoltà a capire le espressioni del volto di attori americani, nordamericani, statunitensi. Quindi da questo punto di vista non ci sono grosse introduzioni, innovazioni in questo gioco, però da un punto di vista videoludico ci sono delle piccole innovazioni molto interessanti. Va bene, io credo che è sparito tutto, gli schermi si sono spenti eccetera eccetera, ma credo che il tempo a nostra disposizione sia scaduto. Va bene, io ti ringrazio per aver partecipato. Secondo me è venuto cioè abbiamo fatto un bel discorso per quanto intricato, per quanto iperramificabile, però tutto sommato interessante, produttivo. Ti auguriamo tutto il meglio per la tua ricerca. Grazie. E speriamo di vederci ancora. Va bene, grazie mille. Ciao. Alla prossima. Bim bum bale giù. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Per questa 18ª puntata di Bim Bum Vale Giù, così gioca il mondo, la penultima di questa stagione, abbiamo intervistato Ivan Mosca, dottorando in filosofia presso l'Università degli Studi di Torino. La sua è stata l'ultima voce dell'anno, l'ultima intervista, con la quale abbiamo colto l'occasione di ribadire e di riorganizzare alcuni dei concetti più evidenti che sono emersi dalla nostra piccola indagine sul mondo del gioco. Il mondo del gioco è istituzionale e, in quanto parte del senso comune, esso comporta da parte delle persone un coinvolgimento particolare. Si vorrebbe capire quando e come l'intervento della persona, del soggetto, sull'oggetto gioco è consapevole e volontario, anche per comprendere qual è il rapporto delle persone con le regole che si stabiliscono in una comunità e che rapporto c'è tra la finzione del gioco, delle regole e delle istituzioni e la realtà nella quale viviamo. Il gioco non è una cosa seria, ma è pur sempre un'esperienza. Cosa rimane del gioco? Forse il ricordo più che altro di una serie di emozioni che conserviamo in modo molto personale e che ogni tanto, come fanno a volte i ricordi e più spesso le emozioni, si attiva da solo, ci coinvolge, ci porta indietro nel tempo e poi ci restituisce alla contemporaneità, ma difficilmente questa esperienza ci spinge ad approfondirne il discorso. Difficilmente il gioco si allontana da quello che è, persino per gli stessi appassionati, i quali conoscono bene i confini istituzionali del gioco e li gestiscono con grande confidenza, quando inizia il gioco come lavoro e quando inizia il gioco come svago. Al di là di questo, probabilmente, c'è la storia culturale di ogni gioco, una ricerca complicata, spesso sospesa nella ricerca di nuove fonti, in altre circostanze impegnata a districarsi tra le false attribuzioni e le leggende urbane. Se volessimo fare un ulteriore passo in avanti, cosa troveremmo? Troveremmo i giocatori stessi, gli amanti del gioco, gli inventori di nuovi giochi, i quali vivono il gioco nella dimensione che Ivan ci ha aiutato a definire, sfidando se stessi e gli altri, esplorando le potenzialità del gioco in termini di conoscenza, socializzazione e ingegno. Ringraziamo Ivan Mosca per la sua gentile collaborazione, nonché Carlo alla parte tecnica. Ricordiamo i contatti www.110.unito.it e il sito di 110 Web Radio, dove potrete trovare i podcast delle nostre puntate, e 110webradio@gmail.com, l'indirizzo email al quale contattarci. Ma potete anche visitarci su Facebook alla pagina Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Io sono Francesco, l'appuntamento con l'ultima puntata di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo è per mercoledì prossimo, sempre alle 20, sempre su 110 Web Radio. Buonasera. Oluwa Olodumare. Avete ascoltato? Bim bum bale giù. Un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim bum bale giù, così gioca il mondo.